ritrovati, ben ritrovate a una nuova puntata della Fuga del Gatto domenica. Che giorno è oggi? Domenica 5 novembre. E Fuga del Gatto, domenica piovosissima, uggiosissima. E siamo riusciti a iniziare anche con il nostro solito, consueto e un po' rassicurante ritardo. Chiaro. 18:26 qui negli studi nascosti e segreti del Wombat. Vi ricordo prima di tutto, prima di dimenticarmelo, voi anzi ve lo dovete ricordare, il sito di Radio Wombat, ovvero wombat.noblogs.org, dove trovate tutto, palinsesto, nuove, nuovissime, scintillanti novità. Tra l'altro avrete visto, insomma, visto che sicuramente siete molto affezionati a noi se ci seguite la domenica pomeriggio, e saprete insomma che sono iniziate un po' di nuove trasmissioni, e quindi insomma è una buona occasione per ricordarvi di andare a vedere tutte le nuove cosette sul Wombat. E poi altro contatto wombattoso, la casella di posta, posta wombat@insiberia.net, dove potete scriverci, anzi vi invitiamo a farlo per raccontarci cosa ne pensate di questa radio, delle trasmissioni, consigli, eccetera eccetera eccetera. Siamo un po' lenti nel rispondere, ma giuro a un certo punto con rispondiamo. Calma, ce la possiamo fare. Sì. E allora, oggi domenica piovosa e noi ve la illuminiamo con un grande classico. Sì, un classicone, due grandi classici. In realtà due, sì, ma di cui uno proprio forse lo supera. Sì, giustamente. È un po' pop, diciamo. Ormai sì, siamo scesi nel pop. Cose veramente diventate, ecco sì, di dominio mega pubblico, anche ai non appassionati di musica classica, fondamentalmente, anche grazie. Grazie a versioni a cartoni animati che poi diremo, insomma. E tempo, sì, direi per rimanere in, diciamo, in tema col tempo meteorologico, siamo andati veramente a recuperare un altro russo, visto che c'è un tempo vero, e siccome c'è un tempo da lupi, e Siberia, così è veramente la battuta, però Pierino e il lupo. Pierino e il lupo, del nostro amatissimo Prokofiev, anche se in realtà poi non abbiamo mai fatto una monografica su Prokofiev, ma ci scapperà prima o poi. Beh, Pierino e il lupo era un po' che ve la... Pierino e il lupo era... Vi doveva sì, toccare. Era un pendente. E in realtà sono, come dicevamo, non è solo Pierino e il lupo, ma sono due opere di Prokofiev, Pierino e il lupo e la Sinfonia Classica. Perché questa combo? Perché siamo andati a scavare nella vecchia tana del Wombat, tra tutti i suoi... Wombat c'ha un sacco di vinili comunque nella tana, c'ha tutti i dischini. Insieme al lupo. Esatto, amico del lupo. E quindi abbiamo ritrovato questo fantastico vinile datato 1986, quindi ecco, cioè, qualcuno di voi non era nemmeno nato probabilmente, Pischelli. E purtroppo qualcuno di noi sì, e come la sottoscritta, e quindi è stato recuperato questa bellissima versione di Pierino e il lupo, e insieme alla Sinfonia Classica, appunto, questa edizione in vinile, Digital Records. Sì, perché abbiamo un certo stile. Comunque, tra l'altro vi farei vedere la copertina, che è una roba incredibile, illustrata da Sokol, bellissima. Magari in radio non si può, ma si metterà magari la fotina, perché è veramente bella, acquerello. E questa combo, appunto, di questa edizione, che comprende anche altri pezzi, della Chamber Orchestra of Europe, diretta da Claudio Abbado. Ma la cosa più interessante è che è narrata da un ancora Ganzo Benigni, che nell'86 ancora ci piaceva, e qui fa un lavoro degno, proprio fa la voce narrante. Perché Pierino e il lupo, come vedremo, come vi diremo poi, ha proprio questo, è un racconto, è una fiaba musicata, e prevede appunto la voce narrante oltre agli strumenti. Questo, però prima di Pierino e il lupo, nel senso in ordine cronologico, in realtà probabilmente faremo sentire prima Pierino e il lupo, però in ordine cronologico, se vogliamo essere giusti, la Sinfonia Classica di Prokofiev. Prokofiev, così proprio per chi proprio non lo sapesse, e se ne deve vergognare ovviamente in questo momento, è stato uno dei più grandi compositori, pianisti, musicisti russi, e nato alla fine dell'Ottocento, esattamente nell'891, e morto nel 1953, sempre in Russia. Quindi è un altro di quelli che ultimamente ci stiamo un po' approcciando a tutti questi musicisti che hanno attraversato proprio la prima metà del Novecento e quindi inevitabilmente riportano tutti dei caratteri abbastanza simili, che sono influenzati poi da quello che dicevamo, dall'innovazione tecnica, da tantissima musica. Sì, dai cambiamenti, dai traumi del certo. periodo e un po' da quella. Siamo appunto anche solo, insomma, attraversano storicamente due guerre, lui addirittura la rivoluzione russa, quindi insomma, ecco, pensate un po'. In realtà lui in Russia, fortunatamente per lui, ci sta ben poco, se ne va parecchio a giro il nostro Prokofiev, perché insomma è piuttosto famoso fin dall'inizio della sua carriera e lavorerà molto a Londra, a Chicago, insomma girerà appunto, girerà il mondo. E verrà influenzato poi da tutti i suoi contemporanei, in particolare insomma da Stravinsky. Era stato allievo di Rachmaninoff, se non mi sbaglio, quindi insomma era un grande pianista, proprio era stato cresciuto come pianista, come virtuoso. In realtà poi insomma diventa compositore fin dalla giovane età. E compone appunto la Sinfonia Classica, se non mi sbaglio, nel 1918? 17, proprio l'anno della rivoluzione, ecco. Quindi ecco, celebriamo così anche noi. Così. Ah, che bello! Però così, visto che va così. E questa composizione, questa sinfonia classica, è così, credo, insomma, ha delle grosse influenze, ovviamente si rifà un po' a Haydn, ha grosse influenze, come anche lui scriveva nella sua biografia, deve molto ai grandi compositori di sinfonie della storia della musica classica, o sbaglio? No, sì, stavo guardando perché mi è venuto il dubbio di avervi detto una cazzata sul 1917, ma invece no, in sì, realtà, è vero, mi sembra. Perché in effetti, no, mi veniva in mente perché è lo stesso anno della composizione anche di Pierino e Lupo, allora avevo paura di sbagliarmi, ma in realtà sì, no... qui sul nostro vinile che noi citiamo dietro e che insomma direi che è Bibbia, il vinile parla appunto proprio che la Sinfonia Classica fu eseguita per la prima volta nel 1918, ma composta in realtà già alla fine dell'estate del 1917, questa è quello che c'è scritto qui, quindi io lo prenderei per buono. Fidiamoci. Sì, anche perché insomma, se no di chi ci si deve fidare, se non dei vecchi dei retro dei vinili comunque. Allora, se no va tutto a scatafascio. Esatto, che mondo è questo? E sì, appunto, quattro movimenti, come è strutturata? Sì. Allora, la Sinfonia Classica, opera 25, anche qui non vado assolutamente a memoria, ci mancherebbe, ma leggo appunto il vinile. Sì, in quattro movimenti, di cui il primo è allegro, il secondo larghetto, il terzo è una gavotta, attenzione alla gavotta. O altra indicazione che mette Prokofiev è non troppo allegro, insomma, ma tante volte uno si potesse far prendere, no. Il quarto e ultimo movimento è il finale, molto vivace. Questo è i movimenti, le indicazioni di andamento che le caratterizzano, appunto. Sì, ecco, chiaramente questo è uno dei primi lavori, insomma, dei primi grossi lavori di Prokofiev, ancora in gioventù, insomma, quindi ecco, probabilmente è stato messo nell'edizione del vinile anche per dare due, no? Appunto, Pierino e Lupo, che invece appartiene agli anni poi del ritorno in Russia, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, e questo invece è uno dei lavori più giovanili, e ancora infatti si ispira appunto, no, per sua stessa missione a Haydn, insomma ai maestri della sinfonia, volendoli però, e già qui c'è una notazione di modernità, perché lui appunto ammette di volerli proprio modernizzare, cioè di voler creare una sinfonia nello stile di Haydn, poiché appunto la tecnica di Haydn, dice lui stesso, mi era divenuta familiare in seguito agli studi compiuti. Però dice Prokofiev, sono convinto che se Haydn fosse vissuto nei nostri giorni avrebbe serbato parte del suo vecchio stile, arricchendolo però di alcune novità. Questo è il tipo di sinfonia che volli scrivere, una sinfonia in stile classico, ma con elementi più contemporanei, no? A sé, ovviamente, quindi si parla comunque della fine dell'inizio del Novecento. E questa è la genesi più o meno della sinfonia classica. Invece, per quanto riguarda Pierino e il Lupo, che è stata scritta dopo, io sì, mi ero completamente sbambolata. Sì. Quando lui ritorna, appunto, nella parte della sua vita in cui lui ritorna in Russia, ovviamente sotto Stalin, come molti dei musicisti, non era amatissimo perché lo considera, insomma, veniva considerato un po' ancora troppo formale, no? Troppo attaccato alla tradizione, non gli piaceva nulla. No, ecco, tra l'altro, ma chi è che gli piaceva? C'era uno che diceva, madonna, guarda, questo allora, proprio mi piace. No, perché troppo è. No, è lei, cosa, uno che le marce, lui... le marce, le fanfare, le perché poi è bellino, perché loro dicevano, la musica no, la musica, l'arte deve servire alla rivoluzione, in realtà era roba iper, cioè quella roba che volevano loro in realtà era iper formale, era iper no? Veramente vecchia in realtà, come, cioè loro dicevano di volere un'arte al servizio della rivoluzione, ma paradossalmente era roba molto tradizionale, tra virgolette molto borghese, se vogliamo, cioè era molto molto canonica, quindi tutta sta rivoluzione, proiezione in avanti molto proiettata all'indietro, in realtà. Di avanti c'aveva poco, perché appunto a tutti i musicisti che invece abbiamo visto, no, Sostakovich eccetera, no, abbiamo già visto dei musicisti che purtroppo avevano avuto grossi problemi con regime, vorrei vedere adesso chi gli piacerebbe a Stalin. Non lo so, mi viene veramente i Metallica, forse i Metallica. Forse Metallica. Beh, Metallica sono anche un po' vecchia. Vabbè, appunto, un po' la vecchia. Giusto. Così, e quindi appunto nel 1936 gli fu richiesto proprio dal teatro dei bambini di Mosca questo lavoro, proprio fu un lavoro su commissione che serviva proprio a scopo didattico, cioè insegnare, no, proprio nel più puro stile così rivoluzionario, di insegnare ai bambini gli strumenti musicali, i ruoli degli strumenti musicali in generale, insomma approcciarli alla musica classica. Quindi Pierino e il Lupo per voce recitante e orchestra, opera 67, è una fiaba musicale che appunto Prokofiev compose, qui dicono sul proprio testo, quindi anche il testo fu scritto da lui, io credevo fosse preso da una fiaba, probabilmente anch'io pensavo in realtà. I personaggi magari sono presi così dalla tradizione delle fiabe russe, insomma, cioè i personaggi che poi vedremo sono piuttosto iconici. Beh, anche perché non è proprio, ora ce lo possiamo dire, non è che sia sta gran narrazione. No, è così, insomma ci sta che l'abbia scritta lui. Eh beh, sì. E così quasi un po' così per evadere appunto, no, da queste violente polemiche che imperversavano allora in Unione Sovietica sul ruolo e le funzioni della musica, e questa composizione ha lo scopo non solo di divertire ma anche di esercitare i ragazzi al riconoscimento dei suoni attraverso il racconto, i vari strumenti che compongono l'orchestra, quello che abbiamo già visto fare a Britten, no? Se vi ricordate la puntata sulla musica per i bambini, quello che Britten farà, perché è dopo quello di Britten, mi sembra, certo. Vorrei dire una castroneria ora, però no, quando fa la sinfonia e spiega, no? Tutti in Britten è proprio esplicitato, c'è una voce che dice questo è il clarinetto, questo è, però questo viene da questo, cioè è un omaggio a questo, cioè a quest'opera qui, cioè qui non proprio viene ogni, questa è proprio l'esplicitazione del leitmotiv, quello che si dice sempre, cioè a ogni personaggio appartiene una frase musicale, uno strumento, e lo strumento esegue un fraseggio e poi viene intersecato con gli altri personaggi al momento della diegesi, cioè sulla diegesi, sulla narrazione. Cosa che tra l'altro aiuta anche molto a sviluppare, oltre che ovviamente l'orecchio musicale e una conoscenza chiaramente per sommi capi, però insomma inizia a sviluppare una conoscenza musicale ai bambini, ma non solo, poi vedremo in realtà. però aiuta anche a associare un colore, perché se ci fate caso lo noterete, se l'avete sentita ve lo ricordate, ma insomma se no la rispolvererete ascoltandola adesso, cioè ogni personaggio ha un suo colore oltre che un suo strumento, quindi l'oboe che è più scuro ma anche un po' più birichino, mentre che ne so, i timpani che sono più imponenti, più prepotenti. Cioè, e quindi questo aiuta a far sviluppare un orecchio musicale e una sensibilità musicale che non è soltanto tecnica, è soltanto l'oboe, è questa cosa qui, ma anche associare un gusto quasi sinestetico di, tra i vari sensi, per cui non, alla musica si associano delle sensazioni e dei colori. E quindi delle immagini, perché appunto la voce narrante, in questo caso è appunto di Benigni, particolarmente divertente, ma fa il lavoro di associazione all'immagine. E quindi, ciascun personaggio è rappresentato da un differente strumento: l'uccellino è il flauto, l'anatra l'oboe, il gatto dal clarinetto, il nonno dal fagotto, il lupo da tre corni, Pierino è il quartetto d'archi, gli spari dei cacciatori sono timpani e grancassa. Inoltre ogni personaggio ha un suo tema conduttore, come vi dicevo, quindi non è soltanto associato a uno strumento, ma c'è anche un tema, e quello è proprio il leitmotiv, cioè il tema del personaggio, e niente di diverso da quello che saranno appunto i personaggi dell'opera wagneriana, che sono stati il personaggio dell'opera, la Valchiria ha il suo leitmotiv, tutte le volte rientra la Valchiria si sente quello, chiaramente nell'opera è molto più complesso, qui è molto più semplificato, è ridotto all'osso, però serve ai bambini a far capire anche questo concetto qui, che è poi un concetto che per esempio la storia della musica per film riciclerà completamente, perché poi la storia della musica per cinema è composta grazie ai leitmotiv, cioè i personaggi hanno un loro, i personaggi e le situazioni hanno un loro tema e ritorna tutte le volte che c'è il personaggio, quindi è una ovviamente Wagner, come sempre la sua genialità, e poi tutti i musicisti insomma, successivi a lui. Espressamente l'autore raccomanda nella prefazione alla partitura di mostrare prima dell'esecuzione gli strumenti ai ragazzi e suonare i vari temi conduttori, così che in tal modo impareranno a identificare il timbro, proprio quella cosa che dicevano Mari, speciale in questi strumenti durante l'esecuzione. Quindi proprio quando veniva fatta dal vivo gli veniva mostrato proprio ai bambini fisicamente gli strumenti e il loro sì, timbro. Anche perché dobbiamo pensare che ora qui siamo nel 36, mi sono già dimenticata. Sì, siamo nel 36, l'ascolto era ovviamente prevalentemente un ascolto live, certo. Ancora, anche se chiaramente iniziava, cioè c'era anche l'ascolto registrato, però insomma non era proprio così diffuso come è adesso, ovviamente. Le radio però non erano così. Adesso non tutti ce l'avevano. È ulteriormente interessante un lavoro di questo tipo, perché adesso invece siamo più abituati ovviamente a non vedere, cioè ad ascoltare e non vedere, anche perché anche la musica contemporanea, cioè, ma in generale, cioè, anche se vai a vedere un concerto di musica classica, l'orchestra in qualche modo è nascosta, certo. È portata un po' lontana, e quindi è molto più difficile associare, se non hai una cultura musicale un po', non dico avanzata, però insomma almeno ce l'hai in parte, non, certo, e soprattutto appunto i bambini poi associare uno strumento a un suono, chiaramente ancora con sì. I suoni sono tutti mischiati, io difficili. Penso anche drammaticamente agli adulti, perché sì, ormai sì, secondo me purtroppo siamo abbastanza messi male da questo sì, punto di vista. È difficile che uno che non studia musica sappia riconoscere un oboe, clarinetto da un oboe, cioè, magari okay, drammaticamente. Sa riconoscere il violino dal pianoforte, grazie, però quando si comincia ad essere una viola da un violino non ne parliamo, quando gli strumenti sono della stessa famiglia chi è che li sa riconoscere, a meno di non essere uno che ovviamente le ha studiate, le conosce, o perlomeno sì, ne è interessato, diciamo. E quindi sì, ancora più interessante adesso, perché appunto proprio per questo discorso qui. Il, appunto, il racconto musicale si snoda su, su questa, così, questa piccola fiaba, una fiaba molto semplice, di Pierino, che con l'aiuto dell'uccellino riesce a catturare questo lupo. Nella marcia trionfale, alla fine, no, come in tutti i temi e gli strumenti, si ripresentano insieme in una sorta di apoteosi conclusiva, che è anche dal punto di vista compositivo il momento in cui le relazioni ritmiche e armoniche, e non solo tematiche, mettono a nudo la salda rete in cui sono intrecciate. Quindi, diciamo, il finale è anche il momento che svela: sì, ok, è un lavoro per bambini, è un lavoro didattico, però è un lavoro che ha anche una grossa qualità musicale, non è soltanto illustrativo, cioè, e questo si esplicita un po' nel finale, in cui tutto è messo insieme. Sì, i nodi vengono al pettine. Esatto, diciamo. Poi chiaramente il narratore all'inizio, lo sentirete, ripresenta, quindi proprio fa questa cosa che veniva fatta dal vivo, qui lui viene registrata, presenta ogni strumento, quindi sentirete all'inizio proprio presentazione dei personaggi e dei loro rispettivi motivi musicali e strumenti. Quindi Pierino e il lupo ebbe un insuccesso inizialmente, come quasi sempre succede alle opere celeberrime, fu un mezzo fiasco proprio nel 36 quando fu eseguita. Ecco, nessuno poteva immaginare, tanto meno Prokofiev, che sarebbe stata forse la cosa per cui divenne famoso fondamentalmente. Cioè, se chiedi alla gente Prokofiev, si ricordano Pierino e il lupo. Ovviamente lui ha composto tanto. Ma non solo, direi che anche al di là di Prokofiev è in generale una delle composizioni probabilmente più conosciute, esatto, in generale della musica classica. Più citate, appunto, ma proprio fino a livello, vi faccio un esempio, nell'ultimo Blade Runner 2049, cioè questo sincrono, quando c'è un segnale nella città, ma nel proprio sonoro che gli viene dato dalla Z, cioè è il tema di Pierino, cioè è proprio pazzesco, cioè nel senso, pensate a come, ma lo sentirete, proprio è proprio stato usato in mille, mille, mille modi, appunto, poi si dirà anche dopo. Addirittura poi appunto trasposto in cartone animato dalla Disney, che l'ha reso proprio, che lo rese celeberrimo. E comunque questa è una versione appunto molto interessante, proprio perché il narratore è benigno e quindi rende tutto anche un po' più così simpatico. Quindi io direi che la facciamo sentire, sì, senza, sì, se no abbiamo, ristordiamo i nostri wombat ascoltatori, perché appunto è tutta di seguito, sono tutti i brani giustapposti uno all'altro, e quindi io direi che si fa sì, vi lasciamo ascoltare tranquilli e indisturbati appunto senza interrompere Pierino il lupo, poi ci fermiamo e vi raccontiamo qualcos'altro al volo, giusto per introdurvi, che in realtà ve l'abbiamo già introdotto, ma insomma vi ricordiamo due o tre cose sulla la sinfonia che andremo ad ascoltare dopo invece. L'opera 25, giusto? 25, sì, già sbagliato? L'opera 25, bravissima, sinfonia classica. Mi appropinco al vinile, tu intrattieni i nostri ascoltatori. Io intrattengo, e comunque questa è la versione, come vi dicevo, dalla collezione privata del Wombat, Roberto Benigni, voce narrante, Claudio Abbado dirige, la Chamber Orchestra of Europe, in una versione di Pierino e il lupo e poi sinfonia classica, e appunto particolarmente interessante perché oggi vi accogliamo il vinile, che è sempre un ascolto ovviamente diverso perché non ha la qualità magari, cioè c'ha un po' di così, è un po' rovinato, però è il subello. Quindi beccatevi Pierino e il lupo. Questa è una fiaba musicale e tutte le fiabe, voi lo sapete, hanno dei personaggi. Ma qui, in questa fiaba, ogni personaggio è rappresentato da un diverso strumento musicale. Pensate che soddisfazione! Ora, per farvi riconoscere i personaggi ogni volta che appaiono, io chiederò ai vari strumenti musicali di presentarsi a voi. State a sentire che roba, eh? Prima di tutto, uccellino è rappresentato da un flauto. L'anitra dall'oboe. State a sentire l'oboe. Il gatto lo fa il clarinetto. Il nonno, molto severo, è rappresentato dal fagotto. Il lupo da tre corni, eccolo che viene. Pierino, l'eroe della nostra storia. Pierino è così importante che è rappresentato da tutti gli archi dell'orchestra. E poi ci sono i cacciatori, che sono meno importanti di Pierino, però sono importanti anche loro e sono rappresentati dai legni. Pensate un po' che anche lo sparo dei fucili ha un motivo ed è suonato dai timpani. Oh, abbiamo fatto le presentazioni e ora immaginatevi la scena se entra dentro alla storia. Una casetta circondata da un grande giardino, circondato a sua volta da una staccionata. Fuori, nei prati, c'è un grosso albero e uno stagno, non molto lontano da una foresta buia e misteriosa. Una mattina di buon'ora, Pierino aprì il cancello e uscì sul prato verde che circondava la sua casa. Sul ramo di un grande albero era appollaiato un uccellino, amico di Pierino. Non appena lo vide arrivare, cinguettò allegramente: «Ma tutto è tranquillo!» Accansò dondolandosi. Era contenta che il ragazzo non avesse chiuso il cancello e decise di farsi una nuotatina nel profondo stagno in mezzo. Vedendo l'anatra, l'uccellino volò giù dall'albero, si posò sull'erba vicino a lei e alzò le spalle. «Ma che razza di uccello sei che non sai volare?» disse, e l'anatra replicò: «Ma che razza di utotare, spatasum!» e si tuffò. Seguitarono a litigare per un bel po', l'anitra nuotando nello stagno e l'uccellino saltellando sulla riva erbosa. Ad un tratto qualche cosa attirò l'attenzione di Pierino. Era un gatto che avanzava insidioso fra l'erba. Il gatto pensò: ecco, un uccello impegnato a discutere, non mi sarà difficile catturarlo e mangiarlo. E incominciò a strisciare verso di lui sulle zampe di velluto. Attenzione! Gridò Pierino e l'uccellino volò svelto sull'albero. L'anitra fece qua qua al gatto. Dal bel mezzo dello stagno. Il gatto girava intorno all'albero e intanto pensava: ma vale la pena ad arrampicarsi così in alto? Quando sarò lassù, l'uccello sarà già volato via. Uscì il nonno. Era arrabbiato perché Pierino aveva disobbedito. Il prato è un posto pericoloso, Pierino. Se un lupo dovesse sbucare dal bosco, che cosa faresti? Pierino non prestò attenzione alle parole del nonno. I ragazzi come lui non hanno paura dei lupi. il nonno lo prese per mano, chiuse il cancello e condusse Pierino verso casa. Appena allontanato che un grande lupo grigio sbucò dalla foresta. In un baleno il gatto si arrampicò sull'albero. L'anatra starnazzò terrorizzata e stupidamente balzò sulla riva. Prese a correre con tutte le sue forze, ma un'anatra non può essere più veloce di un lupo. Il lupo si avvicinava sempre di più finché la raggiunse. Ecco! L'afferrò e ne fece un sol boccone. Ed ora ecco come stavano le cose. Il gatto si era accucciato su un ramo. L'uccellino appollaiato su un altro. Non troppo vicino al gatto, naturalmente. Il lupo camminava intorno all'albero guardandoli con occhi ingordi. Intanto Pierino guardava quel che stava succedendo da dietro il cancello e senza un briciolo di paura. Corse in casa, prese una corda robusta e si arrampicò sull'alto muro di pietra. Uno dei rami dell'albero attorno al quale girava il lupo si protendeva oltre il muro. Afferrando il ramo, Pierino riuscì ad arrampicarsi e così si ritrovò sull'albero. Poi disse all'uccellino: «Vola giù e mettiti a svolazzare intorno al muso del lupo. Attenzione però, non farti acchiappare, eh?» L'uccellino quasi toccava il muso del lupo con le ali, mentre questo, aprendo la bocca, spiccava salti fulminei cercando di azzannarlo. Mamma mia, come l'aveva fatto inferocire! Ragazzi, come voleva afferrarlo! Ma l'uccellino era molto più furbo della belva e continuava il suo gioco. Intanto Pierino aveva fatto un bel nodo scorsoio e cautamente lo calò giù dall'albero. Riuscì ad infilarlo nella coda del lupo e tirò con tutte le sue forze. Sentendosi preso in trappola, il lupo si mise a saltare furiosamente cercando di liberarsi. Pierino niente, legò l'altro capo della corda all'albero e più il lupo saltava, più stringeva il nodo scorsoio. Proprio in quel momento, i cacciatori uscivano dalla foresta. Seguivano le tracce del lupo e sparavano ad ogni passo. Thank you. da disparare, disse Pierino ancora seduto sull'albero. L'uccellino e io abbiamo già catturato il lupo. Aiutateci piuttosto a portarlo al giardino zoologico. Immaginatevi che marcia trionfale! Pierino in testa! Dietro i cacciatori che trascinavano il lupo. Nonno e il gatto chiudevano il corteo. Il nonno scuoteva la testa e continuava a brontolare. Ma se Pierino non fosse riuscito a catturare il lupo, che sarebbe successo, eh? Di loro volteggiava l'uccellino cinguettando allegramente. Però che tipi coraggiosi siamo Pierino ed io! Guardate che cosa siamo riusciti a catturare! Se qualcuno avesse ascoltato con attenzione, avrebbe sentito l'anatra che faceva qua qua qua nella pancia del lupo, che per la fretta quello scemo l'aveva inghiottita viva. Ed eccoci qua, questo era il bellissimo Pierino e il Lupo con voce narrante di un ancora in forma Benigni, molto molto bellino, molto amato da noi giovani wombat, quando eravamo giovani wombat. Come avete sentito, appunto, la parte finale, no? Le parti finali poi fanno rientrare tutti i vari strumenti, tutti i vari temi, e così concludono la fiaba. La Disney ne fece un cortometraggio nel 1946, molto carino, di circa 15 minuti, che poi è diventato piuttosto famoso e che ha contribuito a rimandare poi ancora di più il successo dell'opera, a farla conoscere ai più. L'unica differenza che c'è nella versione della Disney è che i personaggi hanno un nome, quindi l'anatra si chiama Sonia, il gatto Ivan, e qui salutiamo il nostro amico Ivan, l'uccellino Sasha e i cacciatori Misha, Lasha e Vladimiro, e il narratore anche, così chiaramente nella versione italiana non mi ricordo da chi era doppiato, insomma c'è anche lì appunto il narratore. Questo corto, questa versione disneyana fa parte del film, fa parte di un dittico, mi sembra, che si chiama Musica Maestro, uscito 6 anni dopo Fantasia, che era del 40, e che è un po' così un'eredità di Fantasia, è un altro film musicale della Disney, e appunto è fatto a episodi, che sono tutti episodi sulla visualizzazione della musica, proprio la Disney fece appunto così un reprise in piccolo di Fantasia, ed è diventato anche questo un cult movie negli anni. Mi sembra che oltre a Pierino e il Lupo contenga appunto altri, magari poi faremo una volta una puntata su Musica Maestro, era molto carino, mi ricordo, c'avevo la videocassetta. Sì, me la ricordo anch'io. Una bellina. Ok, quindi questo era il celeberrimo. Come vi avevo annunciato in precedenza, la seconda parte dell'ascolto è la Sinfonia Classica opera 25 del 1917-18, e qui siamo appunto, siamo molto prima di Pierino e il Lupo, siamo ancora all'inizio della carriera di Prokofiev, e la cifra stilistica, leggo dal fantastico retro vinile della Sinfonia Classica, è quella di una ricreazione musicale di forme antiche con spirito e mezzi moderni, quindi è interessante perché proprio rappresenta un passaggio, come dicevamo, nella storia della musica classica. Alla saldezza classica della forma corrisponde una modernità che scava a fondo nella materia musicale per rivelarsi anzitutto in certi temi armonici che pur senza stravolgerlo ne arricchiscono lo sviluppo. Altrettanto caratteristiche sono le pungenze ritmiche che punteggiano la partitura e l'eleganza della strumentazione, ricca di continue inattese soluzioni timbriche, ma non priva di certi tratti di umorismo. Assai personale appare l'invenzione melodica, che oscilla tra il ricalco dei modelli classici e la stilizzazione tutta novecentesca di brevi incisi efficacemente caratteristici. Quindi ecco, anche in questa spiegazione, così, che pare un po' complessa, in realtà fa che rivelarci la natura dell'idea di Prokofiev, che cercava di traghettare in un qualche modo la tradizione classica a cui comunque era molto legato e con cui si era formato, era cresciuto, in questo nuovo secolo, che sarà un nuovo secolo anche per la musica classica, un secolo in cui insomma grandi sconvolgimenti avverranno sia nelle tecniche sia nell'ideazione, e appunto i compositori che lo attraversano sono appunto così particolarmente interessanti, proprio perché rappresentano un passaggio tra tutto quello che c'era stato prima e tutto quello che poi verrà. Quindi i quattro tempi seguono lo schema della sinfonia haydniana di Haydn, il primo tempo allegro in forma sonata, incalzante e pieno di trovate, fa seguito un larghetto intensamente espressivo un po' nostalgico, con un timido accenno di bonaria ironia, e tra le righe il terzo tempo è, come dicevamo, una gavotta ripensata sul modello di una danza di corte settecentesca, ed è il gioiello della sinfonia, quella la parte più famosa, mentre il finale, molto vivace, celebra con impeto brillante il piacere ritrovato di una conclusione serena. Quindi ecco, così un po' ancora legati a, non c'è ancora il senso del sospeso che ci sarà poi sia in Prokofiev ma in tanti altri autori, ancora sì, così l'ordine è ancora contenuto, no? Si ritorna alla soluzione finale, che non è quella di Hitler, detta così, suonava male, che di Haydn. Sì, esatto. E questo è appunto così la sinfonia che vi andiamo a presentare, sempre da questo vinile, quindi sempre dalla stessa edizione. Eh sì, e con quest'ultima vi salutiamo anche, visto che l'ultimo brano che vi facciamo ascoltare, quindi rivedere mai alla radio, ci riascoltiamo domenica prossima, sempre con La fuga del gatto, quindi vi salutiamo e io intanto vado ai vinili. Sì, io vi saluto e volevo fare un inciso di auguri di compleanno, che oggi è il compleanno di un grande amante della musica classica. E auguri Giancarlo.